Amici di Runtime, io sono Walter Sbano. Negli anni ho sempre sognato, ho sempre fantasticato di diventare un podcaster, vogliamo dire così? Sì, diciamo così. Ma non era mai capitata l'occasione giusta e non ho mai avuto il guizzo per farlo, fino a quando non è capitata un'occasione legata ad un gioco che si chiama Ingress e che io gioco, o meglio, giocavo in comune con uno degli ascoltatori più fedeli e collaboratori fedeli di Runtime Radio, che si chiama Luca Sambucini, che saluto. Ecco, lui mi coinvolse una calda estate di credo ormai 3 anni fa per partecipare ad una puntata di Videoludica e raccontare che cos'era Ingress, e lì è nato un sodalizio, sono nate tante amicizie ed è nata la collaborazione con Runtime. Da allora non mi sono più fermato, faccio parte dello staff e ne sono assolutamente felice e fiero, collaboro con Simone, Alex, Carlo e tutti gli altri per cercare di intrattenervi e di sfogare quindi anche questa voglia di divertimento che era data dal sentirsi un pochino uno speaker radiofonico. Certo, non sono un professionista, non ho la presunzione di credere di esserlo, ma non fa niente, l'importante è divertirsi e intrattenere. Su Runtime Radio conduco insieme a Simone Pizzi, Marco Gualdi, Carmine Puccio Console e Francesco Lobby Frontali per gli amici, tutti i lunedì sera OGM, un programma che parla fondamentalmente di attualità e di politica e un po' di cose in generale in maniera abbastanza caustica, in maniera sicuramente sarcastica qualche volta e cinica. D'altra parte siamo ex giovani che ormai si sono mortificati, e quello lo dicevamo nella prima stagione. E poi potete comunque trovarmi in altri podcast, in partecipazioni e collaborazioni più o meno regolari, per esempio con Ludico Forum, ma anche in altre circostanze. Bene. Vi do appuntamento ai nostri programmi e vi ricordo che Runtime Radio è la Radio Geek.